Effetto Mondo. I am profoundly religious. My faith is at the heart of who I am. I take an oath before God as enormously consequential. Eccoci Giulia, buongiorno, buongiorno. Siamo arrivati. Sì, abbiamo scelto questo piccolo audio anziché magari la voce di Donald Trump che abbiamo sentito o quella del giudice che ha pronunciato. Io ho ripetuto in tutti i titoli, esatto. Mitt Romney, tanto per preparare, diciamo, gli ascoltatori. Esatto, questo era Mitt Romney che si è sentito in dovere di spiegare subito dopo essere stato l'unico senatore repubblicano a votare a favore dell'impeachment di Donald Trump, si è sentito in dovere di spiegare perché. E in questo discorso, peraltro abbastanza breve ma molto interessante secondo me, con una calma estrema ha spiegato, Mitt Romney, lo dico, e naturalmente di questo parlano tutti i giornali, ha 72 anni, è del 1947, è senatore dello stato dello Utah, quindi di quel Midwest che poco conosciamo tutto sommato, e ha 5 figli, è sposato con la stessa donna, già questo insomma non è così usuale, dal 1969, e in questo breve discorso ripete ancora: io sono profondamente religioso, la fede è al centro di quello che io considero essere la mia persona, e quindi ho preso molto seriamente quel giuramento che ho fatto entrando in Senato e anche all'inizio dell'impeachment di appunto, ho giurato sulla Bibbia, ho giurato su Dio, e quindi per questo io ho sentito un dovere di votare in coscienza, la mia coscienza mi diceva di votare per l'impeachment. Subito dopo, a stretto giro di boa, il figlio Donald Trump Jr., figlio del primo matrimonio di Donald Trump, ha detto che Mitt Romney dovrebbe essere espulso dal Partito Repubblicano. Mitt Romney comunque ha già dichiarato, lo ricordiamo, era stato candidato alle primarie del Partito Repubblicano, sì, poi vinte da Donald Trump, quando poi nel 2015. Mitt Romney ha detto: comunque sappiate, io nel 2020 non voterò per Donald Trump. Quindi insomma è stato sicuramente, ripeto, consumato chiaramente un, sì, lui è sempre stato molto critico, anche perché proprio anche fisicamente come stile sono molto diversi, però naturalmente la notizia su tutti i quotidiani americani con a volte titoli veramente concisissimi tipo Washington Post acquitted, cioè assolto, Trump acquitted, Wall Street Journal, mentre New York Times la fa un po' più lunga, ma è comunque un titolo a tutta pagina. Vi segnalo così come curiosità che mentre sui quotidiani italiani e per esempio quelli spagnoli la foto più usata è quella di Donald Trump alle sue spalle Nancy Pelosi nel suo tailleur bianco che straccia il discorso, sui giornali americani questa cosa non è sembrata così evidentemente, non è sembrata la foto più importante, e tutti i quotidiani principali invece hanno la foto di Donald Trump, quella dove lui alza il pollice, che è il modo tipicamente americano di dire va tutto bene, thumbs up, cioè pollici su, ho vinto, tutto bene. Vediamo oggi alle 18 italiane, no? Cosa esatto, dirà, sarà tutto un pollici su, perché questo lì punto, appunto, farà dopo il State of the Union, che era un discorso già programmato che tutti i presidenti tengono tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, che appunto deve dire come sta l'Unione, Union of the United States. Stasera un fuori programma, ma ovviamente anche giusto, dove parlerà di nuovo e parlerà di questo, dirà le sue reazioni a questa, peraltro ha già definito in mille modi questo processo una caccia alle streghe inutili, uno spreco di denaro pubblico, quindi però vedremo, magari ci dirà qualcosa di nuovo. Dunque, lasciamo un po' Trump nel suo brodo per qualche ora, tanto stasera ne riparliamo ancora, ma di un tema di cui si parla tantissimo è sempre quello del virus, penso un po' ovunque. Sì, anche perché... O siamo noi che siamo ossessionati? No, assolutamente, guarda, c'è dappertutto di nuovo, molto in Germania, perché in Germania la Germania ha storicamente dei rapporti commerciali molto stretti con gli Stati Uniti, tra l'altro questo è un periodo di fiere in tutta Europa. Quindi alcune sono state rimandate, in alcune i cinesi non ci saranno, quelle che invece ci sono già state naturalmente hanno destato qualche preoccupazione. In Germania si parla, per esempio in Germania e nel Regno Unito, di creare in ogni ospedale delle zone dedicate alle persone che o sono in quarantena o hanno palesemente, alle quali è già stato diagnosticato il coronavirus. Sono andata a vedere il New Scientist, che è uno stupendo settimanale dedicato alla scienza, e in un articolo spiegano, ed è tutti riescono a leggerlo, insomma è scritto talmente bene, però è anche autorevole, dicono che il dubbio è che in realtà la velocità di propagazione sia molto più alta. Segnalo che in Australia stanno cominciando a evacuare gli ostelli e gli alberghi frequentati in particolare da giovani, e ne parlano i quotidiani australiani, e comincia a preoccupare anche l'Africa. Sappiamo quanto siano presenti i cinesi in Africa, e tra l'altro, essendoci stato di mezzo il Capodanno cinese e la vacanza, che è l'unica vera vacanza che fanno i cinesi durante l'anno, ci sono stati anche molti viaggi avanti e indietro. Quante precauzioni siano state prese nei vari stati africani, questo veramente non lo sappiamo. The Star in Sudafrica ha lanciato un allarme in prima pagina. Beh, perché sicuramente poi anche la rete sanitaria è decisamente meno efficace, mettiamola così. Mettiamola così, torniamo in Europa, un tema che è stato anticipato tra l'altro oggi da Daniele Biacchessi, ma vedo che tu hai ripreso dalle pagine dell'Irish Times, sì. È ben quello delle elezioni, le elezioni sì, sabato. Esatto, sapete che lì il terzo incomodo è lo Sinn Féin, il partito quello che viene, diciamo, ha le sue radici nell'Ira, ma poi c'è stato il processo di pace, poi ci sono altri, ed è considerato di centrosinistra, ci sono altri due partiti di centrodestra, e sentiamo in questo breve audio che abbiamo trovato un po' la presentazione, e noterete anche l'accento strano degli irlandesi, così come quello degli scozzesi, non è facilissimo da comprendere. Leo Varadkar is well known overseas. He's Ireland's youngest ever leader, the first gay Taoiseach, and has had a major role in the Brexit negotiation. Vedi, sentite, una major role, insomma non è così facile, però il tema è che al di là delle Brexit negotiations, che sapete la famosa questione del backstop, cioè che comunque ha a che fare con i confini doganali, perché di fatto restava un unico confine con l'Unione Europea e passava per l'Irlanda, ma al di là di questo, quindi Brexit archiviata, visto che tutti vogliamo credere a Boris Johnson, let's get Brexit done, tutti, nel senso che l'abbiamo seguita per 3 anni e mezzo e tutti speriamo che adesso veramente alcune regole certe ci siano. Quindi Brexit a parte, che non è più un tema di campagna elettorale, può stupire forse, ma è per questo che appunto l'ho scelto, e votano sabato gli irlandesi, perché questa volta non è tanto una questione politica, quindi non centrosinistra centrodestra, ma le prime conseguenze di lungo periodo del lungo periodo che hanno avuto di sviluppo l'Irlanda, anche grazie a quelle politiche fiscali che sappiamo sono oggetto di discussione, perché si dice nell'Europa dovrebbero esserci le stesse aliquote per le imprese, non è così, quindi l'Irlanda ha attratto moltissime aziende grazie a queste politiche fiscali, quindi grande sviluppo, e però questo ha causato, per esempio, il problema più grande è quello del sistema sanitario, che non è stato adeguatamente finanziato, e comunque la popolazione invecchia anche lì, e degli alloggi, c'è una crisi di alloggi perché ci sono dei prezzi altissimi, anche perché molti magari top manager di aziende americane si sono trasferiti lì, e quindi se da una parte a New York e in altre grandi città succede il contrario, cioè tante case sfitte, nelle città irlandesi invece ci sono poche case, quelle che ci sono carissime. E su questo tema si stanno molto azzuffando. Senti, un tema che da brivido per noi italiani, perché assomigliamo in tanti aspetti, diciamo, nella composizione della popolazione al Giappone, è quello di cui si sta discutendo, per l'appunto, no, da quelle parti. Loro hanno una popolazione molto anziana, e anche noi abbiamo una popolazione molto anziana, e loro pensano di alzare quindi l'età pensionabile. Sì, noi ci credo, insomma, ce la veramente condividiamo con il Giappone questo triste record di paese occidentale con l'invecchiamento più rapido, ma forse loro sono messi anche peggio, anche perché la cultura del Giappone tradizionalmente era quella che le famiglie, un po' come succedeva in Italia, si prendessero cura dei loro anziani. Questo non succede più, quindi ci sono tantissimi anziani soli, ma sembrerebbe che appunto il sistema pensionistico, visto questi dati, è al collasso. E da qui il Japan Times, ripreso dal South China Morning Post, che è un quotidiano di Hong Kong, dice che adesso il governo sta facendo una moral suasion, ma che potrebbe presto diventare una vera e propria legge, perché le grandi aziende, che sapete nel Giappone sono un po' considerate una grande famiglia, alzino l'età pensionabile a 70 anni. Lavorare la fino bellezza a 70 di... anni. qui, insomma, qui in Italia, che ma, vediamo cosa è successo in Francia, anzi ancora oggi i quotidiani francesi sono pieni di questa polemiche sulle pensioni, su certo, queste polemiche sulle pensioni, solo perché si voleva alzarla a 60, cioè lasciarla a 62 guardate, perché e alzarla magari a 63-64 mettendo molti paletti. I giapponesi, penso che per come sono fatti, se dovesse arrivare questa legge, 70 anni come soldatini a lavorare fino a 70 anni. Io non lo so se ce la farei. Io non lo so, ma non so, tutti noi ci fa, a tutti noi fa un po' ansia, però è anche vero che l'età, no? La vita si allunga e anche e le persone ci arrivano più in salute. Certo, bisogna valutare molti aspetti, molti tipi di lavori, perché non tutti i lavori sono uguali, però ecco un ragionamento. Cioè, temo che appunto questa questione della pensione, avete visto anche in Portogallo c'è una stretta, perché comunque il Portogallo ha cominciato a capire che tutte queste persone, anche dall'Italia, anche se non tante, che si trasferivano lì per delle condizioni favorevoli, alla fine faranno pagare qualcosa anche loro, perché comunque i bilanci dello Stato, la coperta è corta per tutti, insomma, anche perché a fronte di l'invecchiamento della popolazione aumentano moltissimo anche le spese sanitarie, e se ci sono dei sistemi sanitari pubblici, questi naturalmente hanno bisogno di budget più sostanziosi. Giulia, abbiamo ancora un ultimo minuto prima di salutarci, 10 secondi li abbiamo bisogno per ringraziare chi ha lavorato a questa puntata. Vedo che tu hai segnato tra i temi del giorno anche quello della polemica per il sostegno della AfD in una votazione, sì, alla CDU. Ci sono tra l'altro poi delle novità che arrivano su questo tema, perché addirittura ti leggo, il gruppo, sì, parlamentare dell'FPD della Turingia vuole presentare una mozione per far sciogliere il parlamentino regionale dell'Ante dell'Est e arrivare a nuove elezioni. Sì, sapete che la Germania è uno stato autenticamente federale, quindi ogni land ha il suo parlamento, le sue elezioni, che sono molto più importanti, nel senso hanno conseguenze molto più serie per le persone che ci vivono delle nostre elezioni regionali, perché noi non abbiamo parlamenti regionali. E quindi questa elezione, dove la CDU, partito di Angela Merkel, locale dello stato della Turingia, ha votato per il candidato liberale, ma lo ha fatto insieme alla AfD, che è il partito di estrema destra, dopo aver sostenuto per anni che con la AfD non si poteva dialogare, sta causando un piccolo terremoto, come dicevi tu, anche a livello nazionale. Kramp-Kallenbauer, che è la segretaria della CDU, ha già detto che chiederà spiegazioni su quanto è successo. Grazie a Giulia Crivelli, vi ricordo a tutti c'è il podcast su radio24.it, grazie a Filippo Aureggi in regia, Jacopo De Franchi in redazione, da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e a domani.